Buongiorno, allora oggi la lezione prosegue sulla halakha della kashrut di carne e latte e come scritto nella descrizione oggi vediamo la permissibilità o meno di porre cibi di latte e cibi di carne sullo stesso tavolo, cioè se due persone mangiano, uno mangia di carne, uno mangia di latte, se questa cosa è effettivamente permessa. Allora il testo ci dice così. Asru chachamim le'echol ma'achalei chalav. I maestri hanno vietato il mangiare cibi di latte al shulchan shemunachim alav, sullo stesso tavolo sul quale sono posti o ochlim alav, o sul quale si sta mangiando, qualcun altro sta mangiando al tempo stesso, beotasha, appunto al tempo stesso. Ma'achalei basar, dei cibi a base di carne. E ovviamente vehen lehefech, la stessa cosa sarebbe valida al contrario, cioè se stanno mangiando di carne non si va a mangiare di latte sullo stesso tavolo. Questo perché shema yavou leochlam yachad, per non entrare nel pericolo, nel rischio di mangiarli assieme, cioè di prendere un pezzettino di quello che sta mangiando quell'altro per assaggiare, per esempio. Questo è il motivo originale del divieto ed è riportato nel Talmud e nello Shulchan Aruch e così via. Ora esistono delle situazioni dove la cosa sarebbe sì permessa, ma bisogna rientrare in certi criteri e seguire certe condizioni. Quali sono? Prima di tutto, ve'en kol hevdeli inyanze, per quanto riguarda questa regola, non cambia ben besar behemah leven chaya o of. La regola interessa ogni tipo di carne che sia vietata dalla Torah o che sia vietata dai decreti dei Chachamim, come abbiamo visto nella prima lezione, quindi anche la carne di animale selvatico, come il daino, o anche la carne del volatile, come il pollo, e rientra in questa regola qui. Se ci fosse stata una dimenticanza, come ci si dovrebbe comportare? Shachechu, se avessero dimenticato, veinichu et shnei haminim ala shulchan, e sono stati posti entrambi i tipi di cibo sul tavolo, allora cosa bisogna fare? Semplicemente toglierli. Non è che diventa non kasher o qualcosa del genere, semplicemente separare. Yesh le'asir miyad et amin hasheni. Va tolto uno, appunto, uno dei due. Ora, se due persone devono mangiare sullo stesso tavolo, ci deve essere appunto qualche cosa che, in altre parole, come ho detto, è permesso, ma ci deve essere qualche cosa che li ricorda di non prendere l'uno dall'altro e ci deve essere per forza qualche tipo segno di riconoscimento. Che tipo di riconoscimento? Allora, ci deve essere, prima di dire quali sono le condizioni e i criteri, anticipiamo, nel caso fossero presenti i criteri che ora vedremo. Comunque, queste due persone non dovrebbero prendere dallo stesso pane e neanche usare la stessa saliera, quindi devono essere totalmente separati. E allora vediamo prima questo aspetto qui che viene anticipato qui nel testo. Shnaim ha'ochlim al'oto shulchan, se due mangiano sullo stesso tavolo. Ha'echad ma'achalei chalav, uno mangia un cibo di latte. Ve'asheni, e il secondo, l'altro, mangia basar, cibo di carne, be'et ubeona achat, in appunto lo stesso momento, asurim le'echol me'otah pat, è vietato per loro mangiare dallo stesso pane. Ovviamente si può tagliare il pane con un coltello parve e mettere delle fette da questa parte e delle fette dall'altra, ma proprio prendere dalla stessa pagnotta, questo sarebbe vietato. Ve'asurim lishtamesh be'otam milchia, ed è anche vietato usare la stessa, appunto, come dicevo, la stessa saliera. Inoltre, è meglio che mochen, razzui, sarebbe bene, shelo yishtu me'otok kankan, anche di non prendere dell'acqua o bevanda dalla stessa brocca o bakbushtia o dalla stessa bottiglia, afilu mishtamshim bekosot nifradim, anche se ovviamente usano bicchieri distinti. Ora, per ciò che riguarda i criteri e le norme che fanno sì che si possa sì mangiare sullo stesso tavolo, allora la halakha prosegue. Shnei ha'ochalim, i due che mangiano, i due soggetti che stanno lì a tavola e vorrebbero mangiare. Bemida u'mekirim ze et ze, se si conoscono, quindi fanno parte della stessa famiglia, oppure sono amici, o comunque conoscenti, arei, chovah e obbligo, sheyasu benehem dvarma, le hacker significa un segno di riconoscimento. Servirà un segno di riconoscimento per assicurare che appunto non rischino qualcosa che non si deve fare. Be'echad me'ofanim habaim, secondo uno dei metodi seguenti. Primo, mappa shonah le kol echad, una tovaglia distinta per ognuno, anche le tovagliette che si mettono solamente per il proprio posto, come si usa ai ristoranti, in molti ristoranti o anche in molte case private. Oggi si apparecchia il tavolo con delle tovagliette separate per ogni commensale. Quindi questo è già sufficiente come segno di riconoscimento, il fatto che ci siano due tovaglie distinte. Oppure, numero due, Hanachat keli o chefetz ktzat gavoah, mettere un oggetto o un utensile un po' alto, quindi che lo si riconosce, shendar kol yot munach al shulchan, ma un oggetto o un utensile che non si trova normalmente sul tavolo, bishata seudah, durante il pasto, e questo funge da tizkoret, un ricordo. Quindi, se io, ecco, per esempio, qui abbiamo una bottiglia, se questa bottiglia non fosse quella usata per il pranzo e io quindi la prendessi, la mettessi lì solo per segno di riconoscimento, anche se forse la bottiglia non è il migliore esempio perché è normale per avere la presenza di una bottiglia d'acqua, qualcos'altro, una lampada, anche un pane, una pagnotta grande, se non è quello dal quale ci stiamo cibando, questo rientra nel discorso di un oggetto che funge da ricordo. Altra possibilità, oltre a queste prime due, è yeshiva, il mettersi seduti, mishnei k'zotav shel shulchan aruch. Se è una tavola lunga, aruch, una tavola lunga, allora se ci si mette uno proprio a capo tavola da un lato e uno a capo tavola dall'altro lato, allora anche questo vale come discorso di distinzione. Quanto lungo? Se stiamo parlando di tecnica lachica, bisogna capire quanto lungo. I commentatori dicono lungo abbastanza perché solamente allungando la mano, non si arriva a toccare il piatto dell'altro. Questo è già sufficiente per lunghezza. Ora, questo di cui abbiamo parlato fino in questo momento, abbiamo parlato di un tavolo, stiamo parlando del tavolo sul quale si mangia. Non stiamo parlando del piano lavoro o del tavolo di preparazione in cucina o simile. In quel caso è permesso porre elementi di carne e di latte al tempo stesso, ovviamente senza contatto tra di loro. Però non c'è nessun problema di cui abbiamo parlato prima. Quindi shulchan, un tavolo dal pacco, misnon, un tipo di banco o tavolo o banco di lavoro, sheno adul e sidur varichata mahalim bilvad, che hanno come scopo la preparazione preparazione anche per mettere sul piatto, eccetera. Qualsiasi tipo di preparazione, però non è un tavolo davanti al quale ci si mette a mangiare. Ben ochlim alehem, mutar leaniach al gabam, è permesso porci sopra maachalei, chalav, cibi di latte, cibi di basar, carne, cibi di parve, che sono né carne né latte, av basar vedagim, oppure cibi di carne e cibi di pesce. Ubit nai, ovviamente con la condizione, shenisarim, che si fa appunto attenzione, bioter, si fa molta attenzione, le afrid ben asugim ashonim, per differenziare tra i vari, le varie categorie, i vari tipi di cibo, le vaglia voli dei irbuvia o achlapa, perché non ci sia appunto un miscuglio tra le varie cose o una sostituzione, un elemento da qui che viene sostituito con un elemento da lì. Ma appunto la cosa è permessa. Ora, se questo è un problema, il fatto di stare a tavola insieme tra uno che mangia di latte e uno che mangia di carne, forse il problema esiste anche nel caso in cui qualcuno avesse già mangiato di carne e si trova entro le 6 ore che bisogna aspettare, o secondo quelli che hanno l'usanza di aspettare 3 ore, entro le 3 ore, è permesso per lui o lei mettersi a tavola con qualcuno che sta mangiando di latte, se il rischio è che vai a gustare quello che quell'altro sta mangiando, allora anche se tu non stai mangiando in quel momento, ma quello sta mangiando di latte, tu sei, tra virgolette, di carne. Quindi questa cosa sarebbe permessa? Sì, è comunque permesso. Mishe achal ma'achalei basar, colui che ha mangiato cibo di carne, Rashai le hassev le shulchan, è permesso che si metta la shulchan a tavola, le yad ha'ochel ma'achalei chalav, accanto a colui che sta mangiando cibi di latte, anche se non è passato il tempo, come dicevamo, va filu terem chalfu sheshaot, anche se ancora non sono passate 6 ore, me'asi yuma chilata basar, da quando ha concluso di mangiare di carne, ma comunque consigliabile mettere qualcos'altro a tavola, qualcosa di neutrale, come per esempio un frutto o qualche altra cosa che non è né di carne né di latte, solo per assicurare che se volesse mangiare qualcosa ci sarebbe qualcosa di permesso da mangiare, ma questo effettivamente non sembra sia un obbligo, è permesso appunto mettersi a tavola. Per ciò che riguarda invece mettersi a cucinare un elemento di latte se si è mangiato di carne, allora ishash achla besari, se una donna per esempio ha mangiato di carne e non sono passati i tempi, terem chalfu sheshaot, non sono ancora trascorse le 6 ore, muteret levashel ma'achalim chalavim. Lei ha, o lui, ha il permesso di cucinare, preparare cibi di latte e non consideriamo rischiosa, tra virgolette, la situazione. Ve'en hosheshim shema tavole holmehem. Non abbiamo timore che arriverà a mangiarne, achen. Ma tuttavia bisogna fare attenzione, dvarim sherigilim li tomehem, toch de abishul, quando si cucinano delle cose che si è molto abituati a gustare durante la cottura o la preparazione, e allora lì bisogna fare più attenzione, e secondo alcuni bisognerebbe addirittura non farlo. Quindi essere più rigorosi nel caso si tratta, in altre parole, dipende dalla situazione. Se è una cosa normale, siamo abituati a fare. Anche se siamo di carne, possiamo cucinare di latte. Se è una cosa magari un po' più delicata, dove facciamo più attenzione e cerchiamo di gustare, vediamo il livello della salatura, eccetera, allora lì in quel caso bisognerebbe cercare di evitare di cucinarlo se siamo proprio di carne. Ora parliamo per ciò che riguarda la attesa che ci deve essere tra il mangiare di carne e poi quando diventa di nuovo permesso mangiare di latte. La regola è la seguente. Ha ochel besar behema, chaya o of, colui che mangia carne di bestia, bovino o ovino, Chaya, bestia selvatica, kasher o off, oppure anche volatile, quindi tutte le modalità di carne che sono vietate se dalla Torah o se non dalla Torah ma dai Chachamim. E non solamente l'elemento di carne stesso o appunto anche di volatile, ma anche un cibo che è, tra virgolette, di carne, cioè anche se non si mangia la carne stessa, ma è stato cotto con la carne, come può essere per esempio il mangiare come usano gli Ashkenaziti, un brodo di pollo. Il brodo di pollo, anche se uno non mangia il pollo stesso, è considerato, per quanto riguarda la regola dell'attesa, come se avesse mangiato la carne stessa. Quindi questo è un esempio, ma va precisato. Quindi, vehen e anche tafshil shenit bashel, qualsiasi pietanza che è stata cotta im achad mehem, con una delle tipologie di carne, afilu marak basaro of tzach vezalul, anche se fosse un brodo estremamente raffinato, quindi con nessun elemento di cibo, è solo liquido e non c'è nessuna carne dentro, ma è un brodo di pollo o di carne o simile, assur bachilat halav umotzarav, colui che appunto è di carne, tra virgolette, non può mangiare latte e derivati b'meshech shesh sha'ot shlemot, per la durata di 6 ore intere dal momento in cui ha finito di mangiare, me'az siyum achilatam. Come ho accennato prima, esistono alcune, pochissime, ma alcune comunità e alcuni hanno questa usanza a Roma, di attendere solamente 3 ore invece di 6 ore, però questo dipende dalla propria usanza originale di famiglia. La maggior parte degli ebrei attendono 6 ore. Oltre all'attesa delle 6 ore, adesso non dirò ogni volta o le 3 ore, sarà chiaro già di cosa stiamo parlando. Quindi, oltre l'attesa delle 6 ore, bisogna anche concludere il pasto. Cioè, se io mangio un pasto di carne e concludo di mangiare la carne alle ore 14 e poi mi allungo nel prendere il caffè, il dolce, e fino alle 14:30, a quel punto concludo il pasto facendo la beracha achronah o la birkat hamazon. Allora bisognerebbe attendere dalle 14:30, dalla conclusione del pasto. E non solamente dalla conclusione dell'ultimo boccone di carne che ho preso. Perché esiste questa attesa? Nelle parole dei maestri Rishonim, cioè i primi commentatori del Talmud, troviamo in generale due motivazioni. Shnei teamim lechovat ha'amtana. Due motivi per l'obbligo dell'attesa, ben besari la chalavi, tra il mangiare di carne e poi mangiare di latte. Numero uno, e sono entrambi motivi tecnici. Numero uno, mechashash lesibei basar anisharim bein hashinaim. Il primo motivo è per il timore di fibre di carne che rimangono tra i denti, vehashpa'atam, e il loro effetto, cioè il gusto, la presenza, eccetera, il residuo, hanimshechet ad sheshaot, che i maestri hanno detto può durare fino a 6 ore, e la seconda cosa, che è simile, shumman habasar, riguarda il grasso. Il grasso relativo al carne, nishar al penea loa vedarkei aikula elyonot, meshech sheshaot, rimane sul palato e più indietro nella gola e sulle vie della digestione, chiedo scusa, della digestione per 6 ore, bemeshech sheshaot, per la durata di 6 ore. Per questo motivo bisogna aspettare 6 ore. Per ciò che riguarda qualcuno che potrebbe dire io le fibre le tolgo o non ci sono, eccetera, allora in realtà ci si appoggia a entrambe le motivazioni insieme e come vedremo appunto più avanti. Yesh mekomot bitvutzot Israel, e qui vediamo appunto quello che dicevo, a cui alludevo prima riguardo l'usanza di una minoranza di ebrei che attendono non 6 ore, ma appunto 3 ore. Addirittura esiste un'usanza secondo la quale si attende solamente un'ora, questo in alcuni luoghi in Olanda. Tuttavia, il minhag appunto più diffuso è quello di attendere 6 ore, come dicevo prima. Ora, per ciò che riguarda queste 6 ore che abbiamo detto sono 6 ore intere, ci sono alcuni maestri che sono meno rigorosi su queste 6 ore e dicono che non è necessario il passaggio di la durata di 6 ore intere, bensì basta la 5 ore e la maggioranza della sesta ora. E su questo ci si può appoggiare sul proprio RAV specifico, se appunto dà questo tipo di istruzione, e questa è una cosa alla discrezione di ognuno che chiede al proprio RAV. Un'altra cosa che rientra in una categoria simile è se uno va a dormire, cioè mangia di carne la sera tardi magari, e poi si sveglia presto la mattina, se gli è permesso prendere il cappuccino o il caffè macchiato con latte, anche su questo c'è chi alleggerisce perché è trascorsa la nottata, anche se non ha dormito molto, ma si è comunque messo a letto la notte a dormire, ma la cosa non è molto accettata dai poskim, e quindi anche qui ci si rifà alla propria autorità halachica personale, come abbiamo studiato nel Pirkei Avot, Aseh Lecha Rav, ognuno deve farsi un Rav e seguire le sue istruzioni, è molto consigliabile farlo, anche se oggi è molto facile avere tantissime opinioni, ci sono quelli che fanno lo shopping delle opinioni e trovano chi dice cosa su un determinato tema e vanno a cercare quella l'opinione che più li rende felici, che sia più leggera o più rigorosa a seconda del carattere della persona, a seconda della situazione, ma in realtà questa cosa non è così ben vista per ovvi motivi, è meglio appunto tenersi alle istruzioni di un proprio Rav che conosce la persona, conosce il suo livello, conosce più o meno quali sono i suoi minagim di famiglia, e così via. Ora, se qualcuno dovesse mangiare della carne, ochel basar, ve kavor sheshaot, e dopo il passaggio di 6 ore, mazashi are basar ben shinav, trova effettivamente delle rimanenze, delle fibre, delle rimanenze di carne tra i denti, e allora cosa deve fare? Aspettare altre 6 ore? No, basta toglierle, tzarich lasiro ulekaneach, lavar, sciacquarsi vrishtofet piv, sciacquarsi la bocca, un mutar bechalavile lontana nosefet, e può a quel punto mangiare di latte senza attendere ulteriormente. Ora, parlavamo prima dell'assaggiare la pietanza mentre la si cuoce. Cosa succede se uno prepara una pietanza di carne? Ci sono pietanze di carne che si preparano già dalla mattina, anche senza mangiare, no? Per esempio una buona mafruma e così via. Ci vuole un po' di tempo. Allora la persona stessa non vuole diventare, tra virgolette, di carne, ma vorrebbe assaggiare quello che sta preparando. Assaggia, ma non butta giù, non ingoia. Quindi solamente assaggia con la lingua e poi sputa fuori. In questo caso, allo es basar upolto, se lo mastica con i denti mentre lo assaggia e poi lo sputa fuori, allora deve attendere le 6 ore come se avesse mangiato la carne regolarmente. Sarich leamtin sheshaot. Ma se lo gusta solamente per vedere appunto il livello del sale, se serve più di meno, avalato amò, lo gusta solamente e subito lo risputa fuori upolto miad, mi bellile lo asso, senza appunto masticare, e no mi chuyav beamtanaklal. In quella situazione non è obbligato ad aspettare niente, nulla, nessun tempo, vedailo bekinuach vestifatape, e gli è sufficiente una semplice pulizia e sciacquare la bocca. Questo se non avesse masticato. Cosa succede riguardo una persona che non è sicura del momento in cui ha concluso il pasto di carne, vorrebbe mangiare di latte, crede che forse sono già passate Sono già trascorse le 6 ore? Forse no. Come bisogna fare? Quindi nel caso dello Safek, caso del dubbio, Hamesupak, colui che è in dubbio, Imavru Sheshaot, se sono passate le 6 ore dal momento in cui ha concluso Meaz Tom, dalla conclusione del suo pasto di carne, Nechleku Adeot, ci sono delle differenze di opinioni, Imrashai Leakel, se da un lato sarebbe permesso per lui alleggerire in questo caso, dato che c'è un dubbio, e mangiare di latte, Vlechol Chalavi, Vassomech Leakel, Kshifshadavelloifsit, e ci si può appoggiare a questa opinione che alleggerisce nel caso una persona avesse bisogno. Molti chiedono, e tra l'altro colgo l'occasione per invitare chiunque avesse delle domande o volesse chiedere dei chiarimenti su quanto stiamo studiando, può anche mettere, scrivere nei commenti e cercherò di rispondere il più presto possibile. Ora, molti si chiedono, è una domanda che mi è stata posta molte volte, qualora si facesse la cottura di un cibo parve, e cioè né di carne né di latte. Facciamo un esempio, una pasta in bianco, cotta dentro una pentola nella quale normalmente si cuoce di carne. Questa persona non diventa di carne, questa persona può mangiare di latte dopo aver mangiato questa pasta che è stata cotta nella pentola di carne. Ugualmente anche per se uno avesse mangiato di carne e poi mangia della pasta che è stata cotta in una pentola che normalmente si usa per il latte, anche qui in questo caso ugualmente la cosa sarebbe appunto permessa. Su questo discorso ci sono delle distinzioni quando si tratta di cibi piccanti o acidi o molto salati, e ci sono delle differenze tra gli ashkenaziti e i sefarditi, e su questo discorso torneremo, se Dio vuole, nella prossima puntata della lezione. Grazie a tutti coloro che hanno seguito e seguiranno, e buona giornata.